Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Questa bella musichetta che state ascoltando è quella del book trailer del romanzo Non è la fine del mondo, scritto da Alessia Gazzola e pubblicato da Feltrinelli. È una musichetta carina. A un certo punto sì, avete sentito, è uno starnuto quello che avete sentito. Insomma, potete tranquillamente guardarla su Google senza problemi. Alessia Gazzola è una scrittrice ormai ultra nota in Italia, soprattutto per aver inventato il personaggio dell'anatomopatologa Alice Allegri, ed è stato molto famoso il suo primo romanzo, appunto L'allieva. L'ultima volta che ci eravamo lasciate con Alessia Gazzola, la Gazzola mi aveva fatto una promessa. Io le avevo chiesto, ma insomma, ma ti stancherai mai di scrivere di Alice Allevi, eccetera? E lei, no, ma perché, ci sono ancora tante storie da scrivere su Alice? E invece tira fuori Non è la fine del mondo, dove la protagonista, signore e signori, non è Alice Allevi. Attenzione, cosa hai combinato, Alessia? Ma ho combinato che dopo tanti anni, in effetti, di Alice, sentivo il bisogno di cambiare, di provare, di mettermi alla prova e di fare questo esperimento, anche perché sentivo questo personaggio che mi parlava, perché poi io non so se te l'ho già detto qualche volta che io sono affetta da questa forma di schizofrenia per cui questi personaggi mi parlano. Cioè, oltre ad essere anatomopatologa, sì, oltre ad essere scrittrice, sei anche schizofrenica nella tua categoria. È una schizofrenia positiva, nel senso che io sento questi personaggi che mi parlano e devo per forza scrivere le loro storie. Il personaggio che ti ha parlato questa volta si chiama Emma. Mm-hmm. Ha 30 anni, vive a Roma ed è definita come l'eterna stegista, insomma, perché fa dei lavori prima nel mondo cinematografico, poi in altri ambienti, però sempre in modo molto precario, insomma, scadono i contratti, non le vengono rinnovate. Mi sembra una storia molto molto reale, insomma. Ha una certa simpatia, però ha un certo modo di comportarsi come Alice. Sono tutte e due un po', appunto, perse nel mondo delle meraviglie, o no? Ma sì, io dico che Emma idealmente è un po' una cugina di Alice, nel senso che attraverso entrambe mi piace raccontare la vita e il mondo di giovani donne alle prese con le difficoltà del mondo del lavoro e del mondo delle relazioni. In Emma certamente l'aspetto del lavoro è un qualcosa che ho curato particolarmente, nel senso che mi piaceva proprio raccontare il suo senso di precarietà, non soltanto di essere appunto sempre in qualche modo anche presa in giro dal capo di turno che le farà un contratto in un futuro che sembra sempre prossimo, però poi non si concretizza mai, fino a che poi appunto è la fine del mondo e non glielo rinnova senza alcun preavviso. E dicevo, dall'altro lato certamente Alice invece ha le sue difficoltà, è una specializzanda, lo sappiamo bene. Certo, ha le sue difficoltà nel lavoro, ma anche in campo amoroso. E anche in campo amoroso, Emma, esatto. Come se la cava con i sentimenti? Ma Emma, diciamo che una, che al contrario di Alice, che invece è una che sogna il matrimonio old style, che sogna l'happy end e via dicendo, invece Emma è una che l'happy end lo sogna con se stessa. E il mondo dei sentimenti sì, le interessa, ha avuto una storia che è stata assolutamente negativa, perché comunque è stata per molto tempo l'amante di un uomo sposato, e fondamentalmente ha ben capito che dopo tutto sta meglio da sola, quindi non è né alla ricerca di un uomo, né ritiene che l'happy end della sua vita si realizzi accanto a un uomo. È una ragazza più autonoma, sì, molto determinata, insomma. Sì. È vero che vive nella precarietà del lavoro, ma quello, insomma, non per colpa sua, però è una ragazza che ha le idee ben chiare anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non solo quella lavorativa. No, esatto. Lei poi io l'ho inquadrata come un tipo, ora io infatti ho messo il sesto titolo al libro, che è La tenace stagista. Lei è una ragazza che assolutamente si applica, è tutto fuorché pigra, ha spirito di sacrificio, erano queste le qualità che invece mancavano esattamente ad Alice, e per cui si era ritagliata quella nomina terribile che aveva in istituto, per cui Emma no, in realtà non ha quelle caratteristiche di essere maldestra o intempestiva, eccetera. Emma no, è una assolutamente basata, assolutamente determinata, che sogna la propria realizzazione nel mondo del lavoro. Ha anche molto idealismo poi in quello che fa. Ecco, Emma, come l'hai definita tu, la tenace stigista, insomma quella che non molla mai, perde questo lavoro nell'ambito appunto dell'industria cinematografica e si ritrova a fare, diciamo, l'assistente, insomma a lavorare in un negozio di vestiti per bambini. Come la prende questo passaggio? Ma lo prende per disperata, perché in definitiva io nel libro un po' racconto come l'Eraschio al fondo del barile, no? Prova a cercare lavoro in ogni modo, del resto lei si è trovata disoccupata da un giorno all'altro e quindi, superato lo shock del momento, si è messa in gioco in tutti i modi possibili e immaginabili, ha provato di tutto, anche in emittenti radiofoniche religiose tipo Radio Maria per Italia, cioè ha provato qualunque cosa. Giuro che a Radio 24 non si è presentata. No, magari poi a Radio 24 la prendevano, la nostra povera Emma. E magari. In ogni caso lei è davvero disperata. Sostiene l'ennesimo colloquio fallimentare dove peraltro viene tacciata veramente per quello che non è, poi ovvero per una miserabile raccomandata, e poi il caso la fa attraversare una strada e arrivare di fronte a una bottega, una sartoria più che una bottega, di abiti per bambini, e c'è scritto cercasi aiutante. Lei, che è appunto del lavoro, ha sempre fatto il certo, motore della sua vita, che si sente anche disperata, l'identità anche proprio. La sua identità, che non ce la fa più sostanzialmente a stare a casa e a non far niente, attirata, io ho scritto come Aurora, che era come ipnotizzata dal fuso dell'arcolaio perché doveva pungersi il dito, quindi ipnotizzata dal cercasi aiutante, entra e si lancia. Poi, chiaro, io lascio ai lettori, ecco, spero, il piacere di scoprire come va a finire. Sì, certo. Però non è, che... è chiaro che non può essere per lei una soluzione definitiva. Lei è la tenace stagista. Lei è la tenace stagista. Lei deve riprendersi quel che è suo. È giusto, è giusto. Infatti è un personaggio molto, molto contemporaneo, devo dire, perché... purtroppo a 30 anni molte ragazze e molti ragazzi continuano a fare gli stagisti, sono sottopagati, guadagnano forse 300-400 euro al mese appunto per fare gli stage quando sono pagati, e chiaramente tu ti sei guardata intorno e ti sei fatta ispirare un po' dalla realtà che ti circonda. Assolutamente sì, perché in realtà, anche se la mia estrazione è quella degli studi di medicina, quindi non la stessa estrazione professionale di Emma, però ahimè questa è una crisi, come dire, mondiale che tocca qualunque tipo di ambito, incluso anche quello della medicina. Per cui anche accanto a me, ma per non andare troppo lontano, anche mio marito è stato tenuto per 3 anni con una borsa di studio di 800 euro al mese, no? E per fare cosa? Per fare biopsie pancreatiche. Ecco, cioè mica una cosa che può fare chiunque. Esatto, ecco. Capito? Quindi alla fine era un qualcosa che io sentivo molto forte. Tutta anche la mia generazione, i miei colleghi di corso in realtà sono in situazioni, la maggior parte di loro in realtà precarie, a Messina fanno rinnovi chi ha un contratto di mese in mese, che è un'esasperazione della precarietà, e quindi da tutto questo stato d'animo, no? Di trentenni che alla fine non possono fare neanche programmi a lunga scadenza, ma neanche, chiaro, a media forse, ma neanche a media, non puoi fare nessun tipo di programma. Veramente un vivere alla giornata assolutamente iniquo a fronte di tutti gli anni di studio. E tu hai deciso di dedicarci proprio a un romanzo, sì, insomma, un personaggio. Un'eroina di... Ti dico che Emma mi sta molto simpatica, anche perché effettivamente non è la classica trentenne, dicevamo prima, che cerca il principe azzurro, ma la sua identità è molto centrata sul lavoro, e questo è sicuramente positivo, e anche una certa dose di autonomia, cioè... sa bastarsi da sola. Sì, sì, sì, ma questo mi premeva molto e mi piaceva immaginare un personaggio con queste caratteristiche e sperimentarlo in qualche modo, perché poi gli scrittori attraverso i propri personaggi sperimentano un po' delle vite alternative, no? Io una volta nel film The Hour, quello là, sì, tratto dal libro di Cunningham, del premio Pulitzer Cunningham, Le Ore, esatto, a un certo momento la sorella di Virginia Woolf dice al figlio: tua zia, ovvero Virginia Woolf, è molto fortunata perché oltre alla sua vita vive quella dei suoi romanzi. E io l'ho trovato illuminante, perché poi la verità, io in tal senso mi reputo molto fortunata perché vivo anche la vita di Alice, la vita di Emma in questo caso, e quindi attraverso la vita, la sorella di Emma, mi piaceva un po' fare questo esperimento, vedere com'è una ragazza con delle caratteristiche in questo caso assolutamente diverse dalle mie, sia di vita, progetti e di tutto. È chiaro che a questo punto la domanda è banale per una scrittrice di un personaggio seriale. Pensi ad Emma come un nuovo personaggio seriale o pensi che rimanga arginata a questo romanzo Non è la fine del mondo? No, io immagino Emma esclusivamente come la protagonista di questo romanzo, non me lo immagino come un personaggio seriale, credo di aver detto tutto quello che le riguarda in questo libro, non immagino neanche l'idea di fare e Alice qualcosa. Invece tornerà? Alice ritorna. Alice torna sempre. Torna in autunno, torna sulla Rai, torna ecco, sulla Rai diciamo, 1. Parliamone di questa fiction. Tu hai avuto modo già di vedere le anteprime. Io l'ho delle... vista tutta. Ti è sembrato? Perché gli scrittori poi quando vedono riprodotti sul grande o sul piccolo schermo, come dire, la propria creatura, a volte ne rimangono un po' estraniati. Tu che sensazione hai avuto? Ma la sensazione, devo dire, è stata invece di grande gioia, nel senso che molte cose, direi le fondamentali, in realtà da questa serie televisiva sono state colte. Vedo assolutamente bene lei, nel senso che... La Mastronardi è stata bravissima nel ruolo di Alice. Alessandra Mastronardi è la protagonista, appunto. È la protagonista nei panni di Alice e aveva tutte le corde necessarie. E quindi, sai, nel momento in cui è azzeccata lei, anche il 90% della serie è fatta, essendo un come dissi anche io a lei una volta, Alice centrico, no? Questa serie, certo. Anche la serie, perché è tutto attraverso il suo occhio, anche la serie TV è tutto attraverso il suo occhio. Quindi, sai, essendo azzeccata lei, è facile che il 90% della serie funziona ed è assolutamente simile a quello che io ho scritto e pensato. La serie TV in autunno, ma anche un nuovo libro? È anche un nuovo libro, sì. Che esce, ancora non so esattamente quando, ma immagino contestualmente rispetto alla serie. Insomma, gli orfani di Alice Levy per ora possono consolarsi con Emma, naturalmente. Il libro di cui abbiamo parlato è Non è la fine del mondo. Alessia Gazzola l'ha scritto appunto per Feltrinelli. Abbiamo detto, non c'è Alice Levy, non c'entra niente l'anatomopatologa, in questo caso è una stegista tenace. E leggetelo per capire dove arriva la sua tenacia. Grazie ad Alessia Gazzola. Grazie Alessandra, grazie a tutti i lettori, grazie. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. E ora vi parlo di un libro, di un romanzo che apparentemente un'autobiografia, ma non lo è. Adesso vi svelerò il mistero. Si intitola 24 secondi, l'ha scritto Simone Marcuzzi, sottotitolo Autobiografia di Vittoriano Cicuttini, ed è pubblicato da 66 and a Second, giusto per intenderci, quella casa editrice dove, per riconoscere il marchio, 66THA2ND, perché si chiama così questa piccola casa editrice romana? Perché quando era nata l'idea, ai due editori, si trovavano a New York e si incontravano sempre all'angolo fra appunto la 66esima e la seconda, e la seconda strada Avenue. Per questo l'hanno chiamata appunto 66 and a Second. È un nome un po' difficile da dire, però ragazzi, è così. Questa casa editrice ha la caratteristica di pubblicare romanzi che hanno a che fare con lo sport. Questo è un romanzo, io ho detto è una finta autobiografia, perché è vero che c'è scritto così. Ma Simone Marcuzzi ci ha voluto un po' giocare su questa cosa, perché in realtà il protagonista, questo Vittoriano Cicuttini, non è mai esistito. No, esatto, è totalmente inventato il personaggio. Tu lo sai che io sono andata a vedere se, su Google, ma... se esisteva veramente. E quindi ho fatto un buon lavoro, vuol sì. dire. No, diverse persone me l'hanno detto che dopo aver letto il libro, ma non è possibile, ho fatto delle ricerche a Google, Vittoriano Cicuttini, e non viene fuori niente. Quindi vuol dire che il risultato è stato raggiunto almeno in parte. E tu ti sei immaginato questo ragazzo che dal Friuli Venezia Giulia, di cui anche tu sei originario, ci vivi ancora a Udine, arriva addirittura a giocare ai livelli dell'NBA americano, cosa che insomma adesso ci sono dei giocatori italiani, giusto, nell'NBA? Sì, ora. Ce ne sono tre adesso, sì. Ricordiamo chi sono. Sono Andrea Bargnani, Danilo Gallinari e Marco Bellinelli. Ecco, però, quando tu hai ambientato il romanzo, diciamo, fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, non era una cosa, no, come infatti, dire, così frequente. No, tutt'altro. Infatti Vittoriano arriva nell'NBA nell'86, quando gli italiani non c'era neanche uno, ma soprattutto c'erano pochi europei in generale. Erano gli anni in cui i primi europei cominciavano ad andare

finalisti al Campiello. Allora, innanzitutto vi segnalo che per quanto riguarda Alessandro Bertante, è andata in onda proprio la settimana scorsa la sua intervista al Cacciatore di Libri, quindi la trovate su radio24.it e potete farvi un'idea di che cosa si tratta. Per quanto riguarda invece Andrea Tarabbia, vi segnalo che è a lui dedicata la puntata di Autori, che viene pubblicata ogni martedì sul sito del Sole 24 Ore. Di che cosa si tratta? Si tratta di un video nel quale uno scrittore legge un pezzo del suo libro e poi ne parla a modo suo, senza, diciamo, interloquire con un giornalista. Quindi martedì 7 giugno è la volta di Andrea Tarabbia, che insomma ha scritto un libro, veramente un romanzo forte, perché è la storia di un serial killer nell'Unione Sovietica degli anni Ottanta. Sentiamo un breve estratto. Adesso è il momento di dormire, pensavo, e di chiudere la bocca. Adesso non devi gridare, non devi raccontare a nessuno dell'ultimo uomo che hai conosciuto. La mandibola era però bloccata e non mi riusciva di chiuderla con la forza delle dita. Avevo paura di romperla e disarticolarla. Così ho infilato le dita nella terra su cui avevamo giaciuto insieme e ne ho preso una manciata. Le ho riempito la bocca perché smettesse di urlare e di avere paura. È tutto per questa puntata, grazie in regia Roberta Frisani. Vi ricordo come sempre che potete trovare tutte le puntate d'archivio del Cacciatore di Libri su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.